punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco, settimana di Pasqua, settimana piena di notizie, ad iniziare dalla politica. Innanzitutto per la politica c'è lo scandalo che ha coinvolto la Lega, ancora una volta un tesoriere di partito indagato per aver utilizzato i soldi in modo illecito e quindi le conseguenti dimissioni di Bossi. E poi è stata anche la settimana in cui è stata approvata la riforma del lavoro da parte del governo che ora passerà alle Camere. Ma in settimana ha tenuto banco anche il caos IMU. I centri assistenza fiscale hanno protestato per la poca chiarezza delle regole su come calcolare la tassa. Altro argomento, il calcio scommesse, con il caso Masiello che ha intascato i soldi per fare un autogol al Bari. Ma partiamo con la riforma del lavoro. Mercoledì è stato il giorno della verità. Dopo i ritocchi seguiti al lungo vertice notturno di martedì con i segretari dei partiti di maggioranza, il Premier e il Ministro Fornero hanno presentato le ultime novità del disegno di legge. Torna il reintegro per i licenziamenti economici infondati. Rappresenta, noi crediamo, un impegno di riforma in un certo senso di rilievo storico. Una svolta storica, una riforma che porterà più occupazione e più crescita, un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, una riforma sulla quale c'è intesa con i partiti e per la quale dovrà esserci quindi un iter spedito e sereno. È fiducioso Mario Monti sul destino di un provvedimento frutto, dice, di una fase prolungata di ascolto di tutti i soggetti coinvolti. È passata al vaglio attento degli onorevoli Alfano, Bersani, Casini. Credo che questo, data l'autorevolezza dei tre leader, assicuri un percorso sereno e rapido. Tocca invece al ministro del welfare Fornero illustrare le novità a partire dall'articolo 18, prevista l'ipotesi di reintegro qualora il giudice dimostri che sui licenziamenti economici ci sia manifesta insussistenza. Questo è il punto che ha permesso la svolta, così come la previsione che l'onere della prova non spetterà al lavoratore. Si abbassa invece la soglia dell'indennizzo per chi viene licenziato dai 12 ai 24 mesi, mentre prima era tra i 15 e i 27. Una modifica equilibrata, commenta Fornero. L'articolo 18 è una grande conquista, ma il mondo è cambiato. Noi non blindiamo più il lavoratore a quel particolare posto di lavoro. Fornero rivendica infine la scelta del dialogo sempre sincero con i sindacati e minimizza sul rischio di tensioni sociali. Credo che il messaggio positivo possa passare. Infine, tra le ultime novità, la quantificazione delle risorse per i nuovi ammortizzatori sociali si prevede 1.800.000.000 di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questa dunque è la riforma del lavoro che continuerà naturalmente a tenere banco anche nelle prossime settimane, quantomeno nei prossimi giorni. Per quanto riguarda l'IMU invece, in settimana i CAF hanno protestato perché non è chiaro come calcolare le rate per i proprietari degli immobili. Sentiamo le loro ragioni nelle parole di Valeriano Canepari, coordinatore della consulta dei CAF, al microfono di Valeria De Rosa. Perché noi abbiamo sollecitato il governo a prendere una decisione? Perché ad oggi il sistema dei CAF ha fatto quasi oltre 1.000.000 di dichiarazioni modelli 730 e abbiamo visto che in questi modelli l'80% dei contribuenti deve pagare l'IMU, a differenza dell'ICI che veniva pagata da pochi perché con la prima casa esonerata la platea era scesa. Adesso invece la platea è grande, quindi dei 17 milioni dei contribuenti che i CAF assistono è probabile che 14-15 milioni siano tenuti a pagare l'IMU. E quindi noi oggi questi 800.000 persone le abbiamo dovute mandar via senza aver potuto consegnare loro il documento per il pagamento dell'imposta IMU. E ora sentiamo Gianni Trovati del Sole 24 Ore, intervenuto martedì a Focus Economia al microfono di Sebastiano Barisoni. È vero che c'è una proroga fino al 30 settembre, ma se ho ben capito la prima rata va pagata il 16 giugno, ma che rata paghiamo? Allora, è l'acconto dell'IMU, perché l'IMU ha portato con sé il calendario previsto dall'ICI. Finché c'era l'ICI però, che era una vecchia imposta che seguiva il suo tran tran tranquillo, non c'era nessun problema perché a giugno tutti i comuni avevano già deliberato le aliquote, a parte che negli ultimi 2 anni nemmeno potevano spostarle. Comunque avevano già deliberato le aliquote, per cui si arrivava all'epoca dell'acconto sapendo bene quanto si doveva pagare per tutto l'anno e quindi quant'era la misura dell'acconto. Adesso invece, siccome ci sono forti problemi nella stima del gettito e siccome il gettito interessa anche allo Stato, perché metà va allo Stato tranne quello prodotto dall'abitazione principale, tutta la partita delle decisioni locali sulle aliquote è ferma, per cui allo stato dell'arte c'è l'obbligo di pagare al 18 di giugno quest'anno, perché il 16 è sabato, ma comunque non cambia nulla, al 18 di giugno l'acconto, ma non si sa come calcolarlo. Punto e a capo. Una delle notizie della settimana è stata senz'altro lo scandalo che ha coinvolto la Lega, le dimissioni del leader Umberto Bossi. Indagato il tesoriere della Lega Francesco Bessito, che si è dimesso anche lui. Soldi dei rimborsi elettorali sottratti per viaggi, alberghi, cene per i figli di Umberto Bossi e per Rosi Mauro. Soldi serviti per finanziare la campagna elettorale per le regionali del 2010 di Renzo Bossi, figlio appunto del senatore, e per ristrutturare la villa della famiglia Bossi a Gemonio. Indagano le procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria. Risentiamo il servizio. Soldi pubblici distratti per sostenere i costi della famiglia Bossi, lo rivelerebbero alcune intercettazioni cui fa riferimento il decreto di perquisizione a carico del tesoriere della Lega Francesco Bessito. Esborsi effettuati per esigenze personali di familiari del leader della Lega, si legge, esborsi in contante o con assegni circolari o attraverso contratti simulati. Nell'inchiesta congiunta delle procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria, Bessito è indagato per appropriazione indebita aggravata, truffa aggravata ai danni dello Stato e riciclaggio. Secondo l'accusa sarebbe stato sottratto denaro al partito e sarebbe stato fatto un utilizzo illecito dei rimborsi elettorali. La gestione della tesoreria avvenuta nella più completa opacità sin dal 2004, si legge ancora nelle carte dell'accusa, con riferimenti specifici a soldi in nero. Si ipotizzano anche rendiconti irregolari presentati dal Carroccio a Camera e Senato, in particolare quello del 2010, sul quale vi è la prova della falsità, scrivono i PM milanesi. Su quel rendiconto, nell'agosto scorso, sono stati corrisposti alla Lega 18 milioni di euro come rimborsi elettorali. Decine le perquisizioni disposte dagli inquirenti anche nella sede della Lega in via Bellerio a Milano, indagati anche gli uomini d'affari Paolo Scala e Stefano Bonet, che hanno gestito le contestate operazioni finanziarie del Carroccio in Tanzania e a Cipro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sentiamo un ritratto del tesoriere della Lega, Francesco Bessito. Tra le carte sequestrate al tesoriere della Lega ce n'era una chiamata The Family, che forse contiene documenti sulla famiglia Bossi. Intitolare il faldone Famiglia sarebbe stato banale, meglio Family, più accattivante e più contemporaneo. Il tesoriere Bessito, del resto, chi è se non un prodotto della contemporaneità nostrana, quella pronta a tutto pur di godere subito? Non potendo per motivi di genere ambire alle aule, passando per le televisioni, Bessito ha comunque trovato la sua via dalle discoteche genovesi a Roma, collezionando cariche e incarichi, diplomi tarocchi, lauree sospette, amicizie pericolose o anche solo imbarazzanti. Nulla lo ha fermato e soprattutto nessuno. Giovanni Morandi sul Giorno l'ha messa sulla fisionomica. Guardatelo in faccia, scritto, per capire il degrado della politica italiana. Ma più che le facce, sarebbe bello confrontare i linguaggi del corpo di tanti altri tesorieri finiti sotto inchiesta, da Severino Citaristi, DC, a Marcello Stefanini, prima PC e poi PDS, fino a Francesco Pontone, Alleanza Nazionale, Giuseppe Naro, UDC, Luigi Lusi, Margherita e infine appunto Bessito. Citaristi, nonostante i 74 avvisi di garanzia, chissà come è passato alla storia come un galantuomo. Difficilmente accadrà agli indagati dei nostri tempi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo ora ai commenti. Cristina Carpinelli ha intervistato il leghista Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Io penso che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli, dall'alto al basso, da destra a sinistra, nel senso che io non sono nella stanza dei bottoni, ma dico che chi sbaglia deve pagare, c'è poco da star qui a discutere di fronzoli o di rifiniture. Oggi c'è un'accusa, è bene chiarirla nell'interesse dei cittadini e dei militanti. La base leghista sembra arrivata, non ne può più. Guardi, innanzitutto io penso che incida molto, però la prima preoccupazione che ho da amministratore, glielo dico con sincerità, chi mi conosce sa che la penso così, è essere un palazzo di cristallo trasparente e dare risposte ai cittadini e ai militanti. Dopodiché le elezioni vengono, se non avranno grandi risultati vorrà dire che i cittadini ci hanno bastonato e fanno bene a farlo, perché comunque non si può essere portabandiera della verità e poi magari non pretenderla quando accadono cose come queste. Di Umberto Bossi si sente di dire qualcosa? Cioè, lei comunque lo conosce molto bene, le sembra possibile che un personaggio come Bossi possa aver utilizzato i soldi del partito per rifarsi, come dicono appunto alcune carte dei magistrati, la villa Gemonio? Guardi, rispetto a Bossi lo escludo, nel senso che è una persona che vive veramente dell'idea che è l'idea del federalismo, dell'autonomia, del nord, e devo anche dire comunque che non conosco le carte, per cui mi fermo qui, dico che per quanto lo conosco io è una persona che vive una vita assolutamente normale e che ha altre cose per la testa e non i soldi. E su questa vicenda sentiamo anche il commento di Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. È difficile credere che in un partito monocratico come la Lega l'improbabile tesoriere Belsito, ex autista di Bossi, abbia fatto tutto da solo. La scandalosa gestione dei fondi pubblici coinvolge in misura da accertare un certo establishment leghista. Questo dal punto di vista politico, e mentre l'inchiesta non è finita, è il meno che si possa dire. Di certo il Carroccio che abbiamo conosciuto, la Lega della secessione del Diopò, la Lega estrema e provocatoria, ebbene quel partito sta finendo. Il tramonto di Bossi è anche in queste tristi vicende finanziarie che travolgono un assetto di potere e cancellano le radici ideali, semmai ci sono state, di un movimento in cui tanti hanno creduto ma che ha tradito sostanzialmente la sua aspirazione originaria. La resa dei conti finale è solo questione di tempo, forse subito dopo le amministrative, ma la domanda oggi è: chi sarà in grado di rifondare completamente il Carroccio? Chi sarà capace di ricostruirlo partendo dalla buona amministrazione locale? Maroni, Tosi, Zaia, è difficile dirlo stasera, mentre la tempesta in furia e la vecchia Lega muore trascinando con sé un gruppo dirigente che si è dimostrato inadeguato. Lotta agli evasori fiscali, un cavallo di battaglia del governo Monti, è un tema diventato ormai di moda. Oscar Giannino ne ha parlato nella trasmissione 9 in punto con Roberto Ippolito, scrittore fra l'altro del libro Evasori, chi, come, quanto, l'inchiesta sull'evasione fiscale. Oltre 10 milioni e 600 mila contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi pagano imposte pari a zero, nulla, 10 milioni e 6, vuol dire un italiano su 4. Poiché l'Istat ci dice che il numero dei poveri è molto più basso, è di assoluta evidenza che l'evasione fiscale in Italia è a un livello pazzesco. I dati quindi forniti dal Ministero, dal Dipartimento delle Finanze, con le analisi delle dichiarazioni dei redditi del 2010, redditi 2010 presentate nel 2011, ci consegnano questa drammatica fotografia. Certamente in modo parallelo c'è l'assoluta assenza di provvedimenti del governo da parte del taglio della spesa pubblica, si parla di tutto meno che di taglio della spesa pubblica, però la gravità e l'enormità dell'evasione è sotto gli occhi nostri. Poi se vogliamo andare nel dettaglio e andare a verificare quali sono le varie fasce di reddito e chiederci poi, incrociando dati che già conosciamo e che possiamo trovare facilmente all'anagrafe tributaria, come mai 518 italiani possiedono un aereo e hanno un reddito sotto i 20.000 euro, allora dovremmo chiederci come mai non stiamo combattendo adeguatamente la battaglia contro l'evasione fiscale, che è un danno, un'ingiustizia e provoca, certamente contribuisce all'aumento della pressione fiscale, perché chiaramente se c'è tanta gente che non paga le tasse, tanta altra gente deve pagare le tasse che gli altri non pagano. E su questo argomento il parere di Alessandro Santoro, docente di Scienze delle Finanze all'Università Bicocca di Milano e autore del libro Evasione Fiscale. Lo sentiamo sempre al microfono di Oscar Giannino. Un non credo che si possa dire che, come qualcuno ha sostenuto, che la lotta all'evasione si è cominciata a fare solo negli ultimi 2 anni. Esiste tutto un armamentario di strumenti che sono stati messi in campo negli ultimi 15 anni, molto legati a mio avviso all'evoluzione informatica e tecnologica, e che oggi sono sicuramente in via di potenziamento, che stanno già dando risultati. Chiaramente non sono sufficienti, chiaramente il livello di evasione italiano continua a essere patologico, cioè superiore a quello fisiologico degli altri paesi. Tutti i paesi hanno evasione, quando sentiamo dire che ci sono paesi dove non c'è evasione diffidiamo, perché non è vero, non è così, neanche nei mitici Stati Uniti non esiste evasione, però certamente è molto inferiore rispetto alla nostra. Quindi ridimensionerei un po' l'importanza e anche l'enfasi che è stata data a queste nuove iniziative, e tra l'altro nello specifico sulle campagne di controlli ci sono sempre state, magari mediaticamente meno promosse, di per se stesse io dubito che possano spostare. Quello che succede è che, diciamo, amplificano un'azione che però poggia veramente su altri strumenti. Segnalo in particolare, quello sì, dei nuovi strumenti importanti, c'è questa possibilità di accesso ai dati sui conti correnti bancari, in generale sui rapporti con gli intermediari finanziari. Quella effettivamente può rappresentare un po' la chiusura del cerchio. Però ecco, il messaggio che io cerco sempre di diffondere è che la lotta all'evasione non è iniziata ieri e non ha cominciato a dar frutti ieri o l'altro ieri. Sono, ripeto, 15 anni che vediamo una tendenza alla discesa dell'evasione dell'IVA in rapporto al PIL, ovviamente. E ancora, a proposito di evasione fiscale, si allentano le norme per chi deve mettere gli scontrini. Riascoltiamo il servizio di mercoledì. Svaniscono come neve al sole le liste nere, quelle che avrebbero dovuto contenere i nomi dei commercianti colti a non emettere scontrini o ricevute, sui quali avrebbero dovuto concentrarsi i controlli mirati delle fiamme gialle. L'emendamento, che sottrae di fatto all'Agenzia delle Entrate la possibilità di elaborare tali elenchi, è stato approvato ieri mattina dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. È stato firmato dal Governo, che ha proceduto su richiesta di PD e PDL. Il giro di vite sui furbetti dello scontrino dunque si allenta. Chissà poi perché, si chiedono pensionati e dipendenti, su quali invece il torchio non smette di gravare. A dare una risposta ci provano le associazioni di categoria, che plaudono all'iniziativa. La Confesergenti spiega che l'introduzione della blacklist avrebbe trasformato la politica fiscale in una caccia all'untore attraverso un'inutile spettacolarizzazione della lotta all'evasione. Confcommercio assicura che l'abolizione delle liste sortirà l'effetto di migliorare la pianificazione degli accertamenti fiscali in un quadro di giuste garanzie per i contribuenti in regola. Contro simili posizioni c'è chi scaglia metafore. Governo e maggioranza hanno tolto i guanti bianchi usati con gli evasori per passare direttamente alle carezze, ha tuonato il capogruppo dell'IDV al Senato Felice Belisario. Gli stessi soggetti, per il segretario confederale UIL Domenico Proietti, si comportano come Penelope, disfano la tela della lotta all'evasione fiscale che si sono impegnati a costruire. Chissà poi perché continuano a chiedersi contribuenti onesti. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24 Ore. Punto e a capo. Veniamo alle altre notizie della settimana. 300.000 euro per truccare il derby Bari-Lecce. Stiamo parlando naturalmente di calcio. E questa è la cifra che avrebbe incassato l'ex giocatore del Bari, Andrea Masiello, che durante la partita fece un clamoroso autogol. Un risultato che permise ai salentini di centrare la salvezza con un turno di anticipo. Con Masiello, accusato di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva, sono finiti in carcere 2 scommettitori suoi amici. Nel mirino degli inquirenti, 9 le partite truccate, 20 le persone indagate. Masiello è stato già sospeso dall'Atalanta, squadra in cui giocava ultimamente, come spiega il direttore tecnico Pierpaolo Marino al microfono di Katia Caramelli. Da quando la vicenda è scoppiata, dal 15 gennaio in poi, l'avevamo sospeso con un provvedimento di autotutela che nessuno finora ha adottato, quindi noi siamo particolarmente feriti dalla vicenda precedente, che già ci vede pagare 6 punti di penalizzazione, e quindi abbiamo ritenuto opportuno, d'accordo la società con l'allenatore, di sospenderlo da ogni attività. Quindi, per quanto tecnicamente lui era un giocatore importante per noi, non ci abbiamo pensato su 2 volte a rinunciare alle sue prestazioni in questo periodo. Quindi già mi pare che sia un provvedimento che la dice tutta su quello che è l'atteggiamento dell'Atalanta, che poi questa volta non è direttamente coinvolta nella vicenda, se non assolutamente danneggiata sia da un punto di vista patrimoniale che tecnico. Siamo stati danneggiati anche dalla vicenda precedente, però lì, grazie a Dio, stiamo pagando con onestà, con serietà e con una squadra che combatte sul campo la nostra punizione. Siamo gli unici a certi livelli ad aver pagato così pesantemente per la vicenda che ha riguardato il nostro ex capitano Doni, e ora siamo in attesa che, siccome il fenomeno, da quello che si vede, non riguardava soltanto l'Atalanta, siamo in attesa che, così come abbiamo pagato noi, paghino tutti quelli che sono coinvolti. Intanto, dice il direttore generale del Bari, Claudio Garzelli, si potrebbe ipotizzare il reato di truffa ai danni della società biancorossa. Sentiamolo. La nostra posizione è stata espressa chiaramente già da tempo. Noi rammento che abbiamo fatto una denuncia per truffa contro le persone che sembrano essere implicate in questa vicenda, e abbiamo chiesto, ovviamente mi riferisco ai non tesserati, e abbiamo richiesto alla Federcalcio già da tempo l'autorizzazione a denunciare per truffa i calciatori che dovessero essere implicati. Per cui che non si può pensare che una società truffata dai propri calciatori debba anche patire le conseguenze, sanzioni disciplinari sportive. Altre due notizie di cui si è parlato molto in settimana riguardano la Calabria. In primo luogo il deputato del PDL, Guido Crosetto, ha dichiarato: «Ho dei colleghi che mi invitano in tutta Italia perché vado a parlare di economia. Io mi rifiuto di andare in Calabria. In Calabria, ha detto ancora Crosetto, il 95% delle persone sono serie, ma il 5% che non lo è controlla tutto o quasi». La seconda notizia riguarda Monasterace, piccolo centro della provincia di Reggio Calabria. Il sindaco, la farmacista Maria Carmela Lanzetta, ha annunciato le dimissioni dopo aver ricevuto una serie di attentati intimidatori. E su questi due argomenti Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, è intervenuto martedì a 24 mattino al microfono di Alessandro Milan. Vorrei però dire prima all'onorevole Crosetto che lei si può trovare benissimo un mafioso a Piazza Duomo, anche in un cosiddetto salotto buono al centro di Torino o di Verona, perché lei sa bene che le mafie esistono dove c'è da gestire potere e denaro. Le mafie sono molto presenti e molto forti in Lombardia, in Emilia Romagna, a Reggio Emilia, in Piemonte, in Veneto. Le mafie sono presenti in Europa e in tutto il mondo occidentale. Io non farei una... se poi vogliamo fare la classifica delle regioni a più alta densità mafiosa, la possiamo pure fare, e quindi in parte Crosetto ha ragione, però non è possibile un approccio del genere da parte di un politico, perché se il politico ha la consapevolezza della pervasività e della presenza delle mafie, così come c'è, dovrebbe essere conseguenziale, perché è lui che è il legislatore, che deve fare un sistema penale, processuale, detentivo tale che non ci sia questa mafia così forte e così pervasiva. Quindi il politico non si può lamentare, non può dire, gridare c'è questo problema mafioso. Il politico deve risolvere il problema, perché è lui il primo di tutti, prima ancora che delle forze dell'ordine, prima ancora che della magistratura, la responsabilità maggiore della politica che non crea un codice proporzionato alla realtà criminale. Quindi il politico non si può mai lamentare della situazione di sicurezza o di presenza delle mafie in un territorio, perché vuol dire che ha sbagliato la ricetta delle leggi. In via principale delle leggi. Secondo punto, per quanto riguarda la situazione di Monasterace, per quanto riguarda la farmacista Lanzetta, che fa parte, che lei stessa fa parte di una famiglia di persone per bene, da generazioni, di gente onesta, di gente che ora, che per la prima volta la farmacista si è presentata, si è impegnata in politica. È difficilissimo fare il sindaco in genere in Italia, sia perché non ci sono più soldi, sia perché non hanno niente da amministrare, ma soprattutto in aree ad alta densità mafiosa è veramente eroico. Io dico al sindaco di non mollare. Io proprio ieri pomeriggio ho avuto un incontro in modo particolare su questo argomento col comandante del gruppo dei carabinieri, colonnello di Rizzo, di Locri. Perché lei segue il caso, anche non ci potrà dire ovviamente, magari, però segue. Mi occupo di quell'area, sì, come procuratore aggiunto di quell'area. Intanto la dottoressa è tutelata dal punto di vista della sicurezza, sì, certo. C'è un gruppo di carabinieri che dedicati proprio a lei per la sua sicurezza ed è giusto che sia così. Io dico che la dottoressa, prima di decidere di mollare, deve tenere in conto questo. Dice: io non resisto più, non ce la faccio più, però attenzione, deve poi fare i conti anche con se stessa, cioè la sconfitta è per tutti noi. Tutti noi oggi siamo sconfitti, uomini delle istituzioni, in particolare a livello centrale, perché vuol dire che il sistema non ha retto, che il sistema non regge, però è un problema anche interiore della dottoressa. In Vaticano c'è chi sa qualcosa sul caso di Emanuela Orlandi, ma non vuole parlare. Questa è in sintesi la posizione espressa dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della ragazza avvenuta nel 1983. Per il momento non sarà aperta la tomba di Renatino De Pedis della Banda della Magliana, custodita nella Basilica di Santa Apollinare a Roma, come invece chiedeva la famiglia Orlandi, dopo alcune segnalazioni secondo le quali ci sarebbe qualcosa nel sepolcro utile alle indagini. Katia Caramelli ha intervistato il rettore di Santa Apollinare, padre Pedro Uidobro. Se l'autorità sia ecclesiastica che civile, con la famiglia De Pedis, decide di trasferire la tomba, le porte della basilica sono aperte sempre, no? Non posso interferire, non devo interferire, amministro e basta, no? Sarebbe comunque favorevole al trasferimento? Sarei favorevolissimo, e anche se non lo fosse, che lo sono, non mi potrei opporre, no? C'è gente, molta gente che viene in chiesa soltanto per visitare la tomba del De Pedis, cosa che mi sembra un po' sorprendente, no? Che evidentemente non è visitabile perché non è accessibile, io non ho le chiavi. Qualche tempo fa ha incontrato il fratello di Emanuela Orlandi, posso chiederle che cosa vi siete detti? Qualche giorno prima, una dimostrazione, un raduno che lui ha organizzato davanti alla basilica. Lui è venuto un po' per spiegarmi che non aveva niente contro la basilica, né contro la chiesa, evidentemente, né contro me e tal, però io le ho detto che, cioè, da quando ho saputo la notizia del rapimento di Emanuela Orlandi, io pregavo sia per Emanuela che per la famiglia, che mi rendevo conto, cioè, della sofferenza dei genitori, che mi augurava che si potesse risolvere e che gli ero vicino. Secondo lei c'è un collegamento comunque con la tomba di De Pedis? Cioè, c'è comunque qualcuno che sa e non ha parlato? Il collegamento con la tomba di De Pedis nel caso di Emanuela Orlandi mi stupirebbe, no? Perché se ci fosse qualcosa avrebbero fatto qualcosa il sostituto procuratore Capaldo o qualcuno, no? Che poteva farlo. Non ho notizie se in Vaticano o fuori si sa qualcosa, non li posso dire. Ancora brutte notizie purtroppo sul fronte della disoccupazione in Italia. Il tasso registrato a febbraio è del 9,3% secondo quanto reso noto dall'Istat lunedì scorso. Preoccupa soprattutto il tasso di disoccupazione giovanile, cioè le persone che hanno fra i 15 e i 24 anni, che a febbraio è stato del 31,9%. Valentina Furlanetto ha sentito il responsabile dell'indagine, Mario Albisinni. La situazione complessivamente del mercato del lavoro è una situazione che si presenta difficile, c'è una discesa dell'occupazione e una crescita della disoccupazione che continuano a caratterizzare il mercato del lavoro. In questo quadro, quelli che ancora soffrono in modo particolare sono i giovani, sicché il tasso di disoccupazione dei 15-24 anni si è portato nel mese di febbraio al 31,9%. È un dato particolarmente elevato che non riscontravamo dall'inizio delle serie mensili, cioè dal gennaio del 2004. Si pensi che nell'arco appunto di un anno il tasso di disoccupazione aumenta di poco più di 4 punti percentuali, quindi è un incremento particolarmente sensibile. Una notizia di politica che ha tenuto banco in questi giorni. Irene Pivetti non ci sta a perdere i benefit per gli ex presidenti della Camera. A Radio 24 la Pivetti ha annunciato che farà ricorso. Sentiamola nella trasmissione 24 mattino al microfono di Alessandro Milan. Io non godo di nessun altro benefit. Io continuo a leggere sui giornali macchina, rimborsi, viaggi, eccetera. Io sono in questo momento alla stazione Termini a cambiare un biglietto che mi sto pagando con i miei soldi. Come pago con i miei soldi tutti i biglietti di treno e di mezzi di trasporto? Sporco da sempre. Ecco, ci dica qua, perché facciamo un po' di chiarezza su questi. Io non ce l'ho quel benefit. Per esempio, non ho altri benefit. Per esempio, l'auto blu ce l'ha? No, non l'ho mai avuta, mai usata. Io ho solamente, e non mi piace considerarlo un benefit perché ho rispetto per le persone, trovo offensivo chiamarlo benefit. Io ho delle persone che lavorano assegnate alla mia segreteria e io mi sto arrabbiando molto perché quelle sono persone che ci vivono di questi soldi e giustamente io dico: non li volete assegnare a me? Io ci rinuncio. Non è giusto, ma ci rinuncio. Però salvate i loro posti di lavoro. Cioè lei ne fa la battaglia per difendere i posti di lavoro delle persone assegnate. Mi rifiuto di considerarli benefit perché io non considero una persona un benefit di un'altra persona. Qualcheduno in malafede ha detto: questa li paragona ai servi della gleba. No, loro li paragonano ai servi della gleba. Io ho detto: è ingiusto trattare la gente come se fossero dei servi della gleba. Questo è una cosa scandalosa, guardi. Sono dei giorni che io sto leggendo menzogne, tra l'altro su di me, ma non ha importanza, ma menzogne su questa storia. Io sono indignata perché ci sono delle famiglie che vengono messe in mezzo alla strada soltanto perché c'è qualcuno che vuol farsi bello. Facciano quello che vogliono, ma con i soldi loro non mettono della gente che guadagna 600-800 euro al mese, non mi sembra che sia una cifra astronomica, qualcuno guadagna anche 1000. Ecco, perché qualcuno deve far finta che il bilancio dello Stato viene risalto. Cioè questo guadagnano le segretarie assegnate al suo ufficio? Sì, perché il punto è questo, c'è una cifra, non c'è un numero di persone, c'è un gruzzolettino. E noi l'abbiamo fatto a fettine molto sottili per poter venire incontro a più persone. E questi con uno spirito, come dire, generoso, di solidarietà, sono d'accordo su questa cosa. Io non ho mai chiesto niente per me, continuo a non chiederlo, ma di questa gente vi dovete fare carico. Vabbè, magari verranno... Ma magari un corno, guardi, faremo un ricorso, quindi questo glielo posso... A lei fa ricorso contro... No, io no, non lo faccio io, lo faranno loro. Adesso verrà... Beh, è una delibera dell'ufficio di presidenza della Camera, cioè chi può fare ricorso? Io lo so perché io sono stata un tempo presidente di quella Camera e conosco bene i precedenti. E quindi ho dato suggerimento a queste persone di rivendicare per se stesse. Punto e a capo. È arrivata lunedì 2 aprile nelle farmacie italiane la pillola dei 5 giorni dopo. Si tratta di un farmaco di contraccezione d'emergenza che può essere assunto fino a 5 giorni dopo il rapporto a rischio e dunque più efficace della tradizionale pillola del giorno dopo. Su questa pillola ci sono state molte polemiche perché soprattutto i medici cattolici si sono opposti alla commercializzazione in quanto la considerano abortiva. Invece, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa pillola non è abortiva. Abbiamo intervistato il ginecologo Enzo Spinelli, direttore sanitario della sezione romana dell'AIED, l'Associazione Italiana Educazione Demografica. Meno male che è arrivato, era tempo che l'aspettavamo. Come mai l'Italia è arrivata così in ritardo rispetto ad altri paesi? Ma credo che sia, come sempre, quando si guardano metodi contraccettivi, in particolare i metodi contraccettivi di emergenza, un problema più politico che scientifico. All'arrivo di questo nuovo farmaco infatti si sono opposti soprattutto per esempio i medici cattolici perché la considerano abortiva. Ma sì, questo è un vecchio problema che risale a diversi anni fa quando fu commercializzata in Italia per la prima volta la cosiddetta pillola del giorno dopo che era a base e tuttora è a base di levonorgestrel. Questa nuova pillola, a differenza della precedente, si può prendere fino a 120 ore, mentre levonorgestrel era indicato come tempo massimo 72 ore. Quindi in questo caso non si tratta di una pillola abortiva? No, assolutamente no. Cioè, ci sono dati scientifici che comprovano tutto l'opposto. Cioè, il meccanismo d'azione di questa nuova pillola contraccettiva d'emergenza è rappresentato da un'inibizione o un ritardo dell'ovulazione. Allora, in questo caso però questa pillola dei 5 giorni dopo, lei diceva, impedisce l'ovulazione, anche se l'ovulazione sta per iniziare, insomma. Ma se l'ovulazione è già avvenuta, come agisce? Non succede niente, ma se l'ovulazione è avvenuta il farmaco non c'ha nessun tipo di efficacia.

un po' più commerciali. Questa era la clip del film, ma c'è paura per l'uscita pasquale? Speriamo nel cattivo tempo, dice scherzando il regista Carlo Virzì. Ma io l'ho giudicata, sai, non è esattamente il mio mestiere quello di piazzare o scegliere l'uscita, c'è la Eagle che lavora su questo, insomma, e spero che abbiano pensato al meglio per me. Questo si aspetta uno da una distribuzione e mi pare che probabilmente potrebbe anche essere utile uscire in un periodo in cui la settimana è un po' più lunga, infatti usciamo di mercoledì e non di venerdì, e una settimana in cui probabilmente storicamente, tradizionalmente fa brutto tempo e quindi vediamo se il tempo è magnanimo e rispetta le tradizioni, vediamo, speriamo. Domenica delle Palme c'era il sole, quindi esatto, però io vedo questo bel grigino che arriva. Vabbè, ma guarda, io mi sento già felice così di averlo fatto questo film, non è che sto a guardare i risultati, veramente non sono il tipo, insomma, per me è un grande risultato, te l'ho detto, come Pluto non suono per i soldi o per il successo, ma solo per la passione di farlo. Ed è tutto per questa puntata di Punto e a Capo. Grazie in regia Filippo Aureggi. Come sempre, la prossima puntata di Punto e a Capo sarà sabato prossimo. Da Alessandra Tedesco, una buona giornata.